Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se il governo forzerà sulla Ius Soli, ci sarà una grande battaglia democratico-parlamentare e nel paese. E siccome tutto questo avverrà di fatto in campagna elettorale, sarà un buon viatico per la campagna elettorale. Semmai la legge, con grandi forzature, sarà approvata, immediatamente procederemo alla raccolta di firme per il referendum abrogativo durante la campagna elettorale. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, avete sentito che il tema dello Ius Soli continua a essere incandescente, ad agitare la politica e continua comunque ad aleggiare sul Parlamento e sul dibattito politico italiano. Questo avete sentito era Brunetta di Forza Italia, oggi 24 mattino qui su Radio 24. C'è intanto un'apertura di Alfano, il compagno di governo del PD con la sua Alternativa Popolare, che ha detto: ma insomma, per noi non è un problema dei contenuti, è un problema temporale. Quindi non si è capito, insomma, se si ha paura che abbia un risvolto, delle conseguenze negative sulla campagna elettorale, quindi sulle elezioni, oppure sia un problema d'altro tipo. Ne parleremo, ci occuperemo molto di politica in questa puntata, perché c'è anche il Movimento 5 Stelle in primo piano, perché fino a poco fa sembrava che il candidato unico per le primarie come premier fosse Di Maio, Luigi Di Maio. In realtà poco fa sul blog di Grillo sono comparsi altri 7 candidati, anche se bisogna dire effettivamente l'unico big è lui, perché gli altri sono un po' degli illustri sconosciuti. Ci occuperemo anche della Lega. Salvini ieri era Pontida, ha escluso dalla scaletta e dalle partecipazioni sul palco Bossi, oggi ha spiegato perché, dice che per lui insomma ormai si volta pagina da quel punto di vista, e ha lanciato anche una provocazione per il sequestro dei fondi del partito. Insomma, ne parleremo dopo, così come ci occuperemo di un nuovo ennesimo caso di violenza sulle donne, questo stupro a Villa Borghese a Roma, e che pone due riflessioni ancora una volta sulla violenza contro le donne in un paese come il nostro che si dice civile. E poi una città come Roma, molti hanno polemizzato tra i politici dicendo che ormai è una città allo sbando, è una città fuori controllo. Voi cosa ne pensate? Pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi, giorno e notte, per i vostri commenti, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, 349-238-6666. Tanti temi, prima di affrontarli con gli ospiti, vi riassumo come sempre la giornata. Violenze sulle donne, turista tedesca stuprata a Roma, ritrovata nuda e legata a un palo, si cerca un ventenne, polemica sulla sicurezza nella capitale. Ius Soli, apertura di Alfano, per noi non è un problema di merito, dice, ma di tempi del voto. Le primarie del Movimento 5 Stelle, Di Maio unico big, Di Battista rinuncia, sul blog di Grillo altri 7 candidati. Voli, Ryanair lascia a terra 400.000 passeggeri, rischio rimborsi per 20 milioni. Il caso di Emanuela Orlandi, spunta un nuovo documento del Vaticano sulla sua scomparsa, ma la Santa Sede lo definisce falso e ridicolo. L'Assemblea dell'ONU, Trump al suo debutto chiede di riformare le Nazioni Unite, intanto jet americani simulano un bombardamento vicino alla Corea del Nord. Sport, presentato il Giro d'Italia del 2018, 3 tappe in Israele e poi la Sicilia. Quindi, come vi anticipavo, partiamo da questo nuovo caso a Roma di violenza sulle donne. Nuda e legata a un palo nel cuore di Villa Borghese. A trovare così la donna tedesca di 57 anni a dare l'allarme è stato un tassista che attraversava il noto parco romano intorno all'una di notte. A Roma da 6 mesi la donna, senza fissa dimora, ha raccontato alla polizia di essere stata aggredita, violentata e derubata di 40 euro a poca distanza da dove è stata trovata da un giovane uomo tra i 20 e i 25 anni, forse dell'Est Europa. Mi ha afferrato per i capelli, picchiato e violentato, ha raccontato sotto shock. A un certo punto sono riuscita a scappare, ma lui mi ha raggiunto, mi ha legato i polsi per non farmi muovere e sono continuati gli abusi. La violenza è avvenuta tra mezzanotte e l'una a Villa Borghese, dove la donna dormirebbe abitualmente. La tedesca è stata trasportata in ospedale per i controlli, mentre la procura di Roma ha aperto un'inchiesta per violenza sessuale al momento contro ignoti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Poi ne parleremo, come dicevo. La politica italiana adesso con Angelino Alfano che riapre il dossier Ius Soli, Alternativa Popolare, il suo partito, dice il ministro, ne riparlerà nella direzione del 26 settembre. Per noi non è un problema di merito ma solo di logistica temporale. Un appello per la legge viene dalla Presidente della Camera Laura Boldrini di accelerare sullo Ius Soli. Per Romano Prodi la approvazione è possibile una volta sgombrato il campo dalla legge finanziaria. MDP avverte che sull'argomento misurerà il suo rapporto con maggioranza e governo, mentre dal centrodestra Brunetta, l'avete sentito, di Forza Italia, giudica gravissimo un eventuale accordo governo-Vaticano per l'approvazione. E così, restando sulla politica, siamo alle primarie del Movimento 5 Stelle. In totale 8 candidati, ma un unico leader, Luigi Di Maio. Gli altri concorrenti alla premiership del Movimento 5 Stelle sono infatti illustri sconosciuti: Vincenzo Cicchetti, Luigi Fattori, Elena Frallicciardi, Andrea Davide Ispirato, Domenico Novi, Gianmarco Piseddu e Nadia Zordan Marco. Lista provvisoria, annunciano poi dal blog di Beppe Grillo, che sarà sottoposta alla votazione degli iscritti e diramata dopo le opportune verifiche. Gli altri big rinunciano: Alessandro Di Battista lo annuncia su Facebook, Roberto Fico, punto di riferimento degli ortodossi, preferisce non scendere in campo. C'è poi la candidatura di Roberta Lombardi alla Regione Lazio, che viene derubricata dalla nemica sindaca di Roma, Virginia Raggi, come una delle tante, ma Lombardi sostiene comunque Di Maio. L'importante è che ci siano delle persone che si mettono a disposizione per il progetto del movimento, insomma, che siano una o che siano di più, non è quello l'importante. Arriva poi la provocazione dello scrittore Roberto Saviano, che si candida alla premiership su Facebook per trarre il movimento dall'impaccio di una situazione patetica, per non dire bulgara. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto nel centrodestra resta il tema della leadership in un Parlamento che ritiene la Lega debba sparire. I parlamentari della Lega questa settimana non parteciperanno ai lavori ma visiteranno le zone terremotate. Questo l'ha detto Salvini al termine del Consiglio federale del partito dopo il sequestro dei fondi del partito. Oggi Salvini, dopo Pontida, è tornato a ribadire che la Lega è un partito nazionale. Bossi ha una visione diversa da migliaia di italiani, ha precisato 24 Mattino, ospite di Luca Telese. Sentiamo. Evidentemente qualche errore in passato è stato commesso, e limitare la propria azione politica alla mia Milano, a Verona o a Cuneo non ha senso. L'Italia dà una risposta se rilancia le infrastrutture del sud, i porti del sud, le aziende del sud non possono competere con il resto del mondo se per trasportare le loro merci pagano il doppio, se l'energia la pagano il doppio. Io cosa dico? No, guarda, sono il leader della Lega, me ne frego di quello che succede in Abruzzo e in Puglia, dai, siamo seri. E continua a essere sempre in primo piano l'inchiesta Consip. Sono stati aperti 2 fascicoli per violazione di segreto d'ufficio. Il nuovo capitolo che vede protagonista il Tribunale di Piazzale Clodio riguarda la fuga di notizie relative al contenuto delle audizioni sul caso Consip avvenute presso il Consiglio Superiore della Magistratura. I 2 fascicoli fanno riferimento a 2 distinti episodi di notizie coperte da segreto apparse sui quotidiani. Il più eclatante riguarderebbe le accuse ai carabinieri del procuratore di Modena Lucia Musti. Quest'ultima definì il maggiore Giampaolo Scafarto, il capitano ultimo Sergio De Caprio, all'epoca dei fatti comandante del NOE, 2 esagitati, spregiudicati, come presi da un delirio di onnipotenza. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, per i 2 militari l'inchiesta sarebbe potuta arrivare a Palazzo Chigi coinvolgendo l'allora premier Renzi. Sono a disposizione del procuratore della Repubblica di Roma, spiega la Musti, mi sono state attribuite però frasi non dette o inesatte. Il capitano ultimo dal canto suo parla di gravissime accuse infondate mosse nei suoi confronti. Audizione infine davanti al CSM degli aggiunti di Napoli sui conflitti sorti all'interno della procura, sulle modalità di conduzione delle indagini da parte del PM Woodcock. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di legge di bilancio. Tra le ipotesi allo studio per la prossima legge c'è un nuovo intervento per spingere all'emersione dal nero i contanti. L'idea è quella di far pagare un forfè sul contante che si fa emergere, con il vincolo di investirne una quota in titoli di Stato. Oggi della prossima legge di bilancio sono tornati a parlarne a Milano la sottosegretaria Boschi e il leader degli industriali. Una legge di bilancio molto prudente, parola del sottosegretario Maria Elena Boschi, che così anticipa la finanziaria che il governo approverà a breve. Avrà margini di manovra ridotti, perché sono ridotti, dice, i margini di flessibilità ottenuti a livello europeo. E questo rende difficile immaginare una consistente riduzione della pressione fiscale, ma conterrà misure anti-evasione. L'Italia, sottolinea Boschi, in 3 anni ha raggiunto risultati importanti, passando dagli 11 miliardi recuperati nel 2014 ai 23 di quest'anno. Tra i risultati del governo, il ministro Boschi sottolinea la crescita del PIL. Chiuderemo per il secondo anno di seguito, per fortuna, con un risultato superiore addirittura alle previsioni del governo, molto probabilmente con l'1,5% di crescita di PIL. È d'accordo sulla prudenza per la legge di bilancio, ma si tratta di una questione di priorità, secondo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. È arrivato il momento in cui nel Paese occorre scegliere le priorità su cui puntare e non fare un poco per tutti. Il sistema industriale c'è, dice Boccia, visto il più 5% annuo di export, che significa in proiezione 20 miliardi in più, ma ci vuole un grande piano di inclusione dei giovani. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E adesso il caso Ryanair. Sui tanti voli soppressi dalla compagnia low cost, un portavoce della Commissione europea ha detto: ci aspettiamo che Ryanair rispetti le regole sui diritti dei passeggeri. 400.000 passeggeri, tanti sono i clienti Ryanair coinvolti nelle cancellazioni decise dalla compagnia, mentre per le richieste di rimborso la low cost ha preventivato fino a 20 milioni di euro. Rimborsi e riprogrammazioni necessarie, tanto che è intervenuta la stessa commissione. Le decisioni operative spettano alle compagnie, ma quante operano nell'Unione devono rispettare le regole europee, ha dichiarato un portavoce di Bruxelles. Il taglio, oltre 2.000 voli entro fine ottobre, è stato giustificato come necessario per migliorare la puntualità scesa al di sotto dell'80%, per una combinazione di ritardi e scioperi dei controllori di volo, del maltempo e dell'impatto crescente delle assegnazioni di ferie a piloti e equipaggio di cabina. Il numero uno, l'IRI, si è affrettato a smentire una carenza di comandanti, ma la fuga dalla compagnia pare trovare conferma nel bonus fedeltà annunciato dallo stesso IRI. Certo è che la decisione di sopprimere tra i 40 e i 50 voli al giorno non ha fatto bene al titolo, che è arrivato a cedere quasi il 5%. Il timore è che l'immagine della compagnia venga appannata dalla scarsa affidabilità, che potrebbe influire sulle prenotazioni future. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero adesso, in vista dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, il presidente americano Trump sottolinea che gli Stati Uniti sono impegnati a riformare l'ONU, nata su principi nobili ma con burocrazia e cattiva gestione. Ne parleremo, ci collegheremo con gli Stati Uniti. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno simulato un bombardamento con bombe inerti sul vicino alla Corea del Nord. Insomma, continua questo braccio di ferro. E poi, per quanto riguarda la Siria, Carla Del Ponte, dimissionaria da membro della commissione d'inchiesta sulla Siria, ha fatto un ultimo appello a favore di un tribunale internazionale, denunciando 7 anni di completa impunità. 7 anni, dice, di crimini in Siria, e una totale impunità non è accettabile, ha dichiarato l'ex magistrata, conosciuta per il suo parlare fuori dai denti, per la sua sete di giustizia, in occasione dell'ultima apparizione di fronte al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra. Tocca parlare anche di uragani. Maria si rafforza ancora e diventa un uragano di categoria 3, si sta muovendo verso i Caraibi, dove si prevede toccherà purtroppo le stesse aree già devastate da Irma. E questo è un altro uragano nell'incredibile sequenza ravvicinata degli altri recentissimi, no? Ne abbiamo parlato: Harvey, Irma, Cosè e appunto Maria. Il caso Orlandi. La famiglia di Emanuela Orlandi vuole incontrare il segretario di Stato Vaticano Parolin con serenità per cercare insieme la verità, dice l'avvocata Laura Sgro, l'avvocata della famiglia Orlandi, alla luce del nuovo documento pubblicato dal giornalista Emiliano Fittipaldi, datato 1998, in cui si elencano spese per oltre 483 milioni di vecchie lire sostenute dalla Santa Sede a seguito dell'allontanamento di Emanuela. Però il Vaticano definisce falso e ridicolo questo documento. In Arabia Saudita è vietato festeggiare il compleanno. Questa è la fatwa, la condanna lanciata nella sua trasmissione televisiva da un religioso consigliere della Casa Reale Saudita, perché, dice, il divieto intende impedire spese superflue, visto anche, e questo vale anche per le feste di compleanno dei bambini in Arabia Saudita. La gente non ha tanti soldi da spendere per questo genere di cose, ha affermato il religioso. Sono cose che non portano nessun beneficio, l'Islam non le promuove e possono portare le famiglie alla povertà. Sui social media c'è chi ha accolto questa fatwa come un messaggio positivo di frugalità, chi invece ha criticato le autorità dell'Arabia Saudita, paese ricchissimo di petrolio, per non essere in grado di garantire a tutti la possibilità di festeggiare un compleanno. E adesso con lo sport, presentato il Giro d'Italia 2018. Per la 13ª volta fuori dai confini italiani, ma per la prima volta fuori anche dall'Europa. Ma più che le statistiche, è la meta ad aumentare la suggestione per la prossima partenza del Giro d'Italia. Il 4 maggio 2018, infatti, la carovana rosa comincerà a pedalare per le vie di Gerusalemme, con una cronometro individuale di 10 km che sfiorerà la città vecchia. E poi ancora due tappe, il 5 maggio da Haifa a Tel Aviv e poi ancora da Beersheba a Eilat sul Mar Rosso. Tre tappe per celebrare il mito di Gino Bartali, a 70 anni dalla vittoria del suo secondo Tour de France, nella terra che ricorda oggi Ginettaccio allo Yad Vashem, il memoriale dei giusti fra le nazioni, vista la sua attività per salvare gli ebrei dalla persecuzione nazifascista durante il secondo conflitto mondiale. Ma il 1948 fu anche l'anno di nascita di Israele stessa. Sarebbe bello allora che, vista l'eccezionalità dell'evento e delle ricorrenze, le ruote di quelle biciclette lambissero anche le strade della Cisgiordania palestinese. A Ginettaccio piacerebbe, e per una volta ne siamo certi, non direbbe che tutto è sbagliato e tutto da rifare. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E visto che stiamo parlando di ciclismo, vorrei darvi anche questa notizia. Una donna di 94 anni ha vinto una medaglia d'oro, quella per la gara di ciclismo a cronometro, Pierina Tumiatti, classe 1923, è di Rosignano, in provincia di Livorno, e alle Olimpiadi di 50 anni e più, quindi a Marinella di Cutro, si è cimentata nella più grande passione, la bicicletta, vincendo la cronometro a 94 anni. A premiarla Francesco Moser: quello che mi è rimasto più impresso di questa Olimpiade, ha affermato il campione di ciclismo, è stata questa splendida signora che all'età di 94 anni va in bicicletta e va e fa le gare, le vince, è fantastico, è come dire il contrario del resto. Direi di fermarci qui, la sintesi della giornata è questa, con i fatti più importanti, e alcuni dei quali tra poco tratterò insieme agli ospiti. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi WhatsApp, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Nota alla quale potete aderire senza indugio. C'è Fabrizio per esempio che scrive: la giunta Raggi è di un'insipienza sbalorditiva, è riuscita perfino a osteggiare le disinfestazioni contro la zanzara tigre farneticando di rimedi naturali meno impattanti dei pesticidi, e così dice il penoso risultato di far attivare un allarme internazionale da parte dell'OMS. Questo a proposito della domanda che mi ponevo all'inizio, queste violenze contro le donne, appunto interrogarsi su che cosa si sta facendo davvero in Italia per prevenirle. E poi Roma è in una situazione particolare anche per questi fatti, e con le polemiche dal PD agli altri partiti, da Forza Italia alla Lega, che dicono la città è allo sbando. Cosa ne pensate? Ne parleremo tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Molte le notizie, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ve l'ho riassunte come sempre all'inizio e accendete puntualmente alle 21, anche se poi ogni tanto vi ricordo i titoli principali. Roberta Giordano sempre con voi, siamo sempre insieme sino alle 22 tutte le sere, ve lo ricordo, dal lunedì al venerdì. Tra poco parleremo di questa nuova violenza contro le donne e anche della situazione di Roma. Vedo molti vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Vi ricordo molto velocemente quali sono appunto le notizie più importanti. Per quanto riguarda le primarie del Movimento 5 Stelle, Di Maio unico big, Saviano lo sfida, dice mi candido io, malumore tra gli ortodossi, però ci sarebbero sul blog di Grillo altri 7 nomi in corsa. Shock nel cuore di Roma, una turista tedesca stuprata a Villa Borghese, nuda e legata a un palo, caccia a un giovane tra i 20 e i 25 anni. Consip, l'inchiesta al via due indagini per rivelazione di segreto d'ufficio. E poi sullo Ius Soli, Alfano apre Alternativa Popolare, il suo partito dice che ne riparla il 26 settembre in direzione, mentre il PD lavora al Mattarellum capovolto a proposito della legge elettorale. Voli cancellati, Ryanair lascerà a terra 400.000 passeggeri, con questo c'è un rischio di rimborsi per 20 milioni di euro. E poi Trump all'ONU dice limitato da una cattiva gestione, nella notte italiana ci sarà l'Assemblea Generale dell'ONU e Trump intende rinnovarlo. Poi c'è un nuovo dossier sulla vicenda infinita di Emanuela Orlandi per il Vaticano è falso. La famiglia però vuole incontrare il segretario di Stato Parolin. Dicevamo quindi ancora violenza sulle donne, maltrattamenti, botte, stupri, femminicidi all'ordine del giorno, ma ovviamente si parla poi solo di quelli denunciati. Immaginate che cosa sono tutti i casi sottaciuti. L'ultimo caso che è alla ribalta delle cronache, lo avrete visto e lo avrete naturalmente sentito nella giornata, questa turista tedesca di 57 anni violentata nella capitale a Villa Borghese, parco di Roma. A trovarla completamente nuda, estesa per terra con i polsi legati dietro la schiena, è stato un tassista nella sua ultima corsa, appunto, che finiva proprio lì vicino a Villa Borghese. L'uomo ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine, la vittima è arrivata alla polizia, era in stato confusionale, è riuscita a riferire poco di quanto accaduto. Comunque ha spiegato che un giovane tra i 20 e i 25 anni, di carnagione chiara, probabilmente straniero, forse dell'est, l'ha aggredita, l'ha presa per i capelli, l'ha picchiata, le ha rubato anche 40 euro e poi l'ha violentata, l'ha legata a questo palo. Quindi questa ennesima violenza sulle donne porta principalmente a due riflessioni. Una è appunto questa sconcertante evidenza che nel nostro paese si rischia sulla pari dignità e sulla libertà delle donne di andare veramente indietro anziché avanti, no? Questa è una cosa inaccettabile. Poi porta anche come riflessione a chiedersi, ma la città di Roma, molte le polemiche oggi, ho visto un sacco di interventi di politici naturalmente fuori dal Movimento 5 Stelle che andavano dal PD alla Lega, Forza Italia, che insomma parlavano di una città allo sbando, di una città fuori controllo. Effettivamente sta diventando questo Roma? Bisogna dire che sicuramente la sindaca Raggi ha ricevuto un'eredità pesantissima, però qualcuno dice in realtà poi nulla è cambiato, nulla è migliorato, addirittura è peggiorato. Ne vorrei parlare con Ernesto Menicucci. Buonasera Ernesto. Ciao, buonasera. Ciao Ernesto, che è caporedattore cronaca di Roma del Messaggero. Voi tra l'altro state portando avanti anche una campagna, no, sulla sicurezza a Roma, in particolare per le donne, perché quando c'è meno sicurezza le prime a pagare sono sempre le donne, purtroppo. Purtroppo, ahimè, è così. No, sì, siamo partiti una settimana fa circa all'indomani dell'altro episodio, dell'altra violenza subita da quella ragazza finlandese, sì, no, all'uscita da un locale del centro. Tipologia diversa, crimine ovviamente lo stesso, della stessa entità e della stessa appunto gravità di quello di adesso. Purtroppo siamo stati così facili profeti, nel senso che questo problema ovviamente a Roma c'è, non c'è da adesso, bisogna essere onesti fino in fondo. È un problema che nasce con la giunta Raggi, certo, naturalmente quello degli stupri o della violenza contro le donne, né a Roma e anche ovviamente in altre città d'Italia. Non è che Roma purtroppo, cioè non è che esiste solo Roma, no? E questo, anche questo purtroppo mi viene da dire, purtroppo, perché il fenomeno è fin troppo allargato. C'è di sicuro il fatto che, come dicevi tu, insomma, in una città, in una capitale che sembra sempre più abbandonata a se stessa, dove si moltiplicano le situazioni di degrado, di abbandono e quindi anche di scarsa quindi sicurezza da tutti i punti di vista, è evidente che gli episodi di appunto di criminalità, in questo caso di stupri, di violenza, si possono aumentare. Insomma, molto banalmente, è chiaro che se Villa Borghese è una terra di nessuno, dove ci dormono, no, senza fissa dimora, o dove di notte appunto non passa nessuno, c'è l'abbandono, la sporcizia eccetera, purtroppo quella diventa una zona a rischio ed è nel centro più centro di Roma. Stessa cosa vale per alcuni quartieri dove c'è appunto la movida eccetera, se poi di notte non sono sorvegliati o appunto sono tenuti in una situazione di abbandono e di degrado, è più facile che il malintenzionato, il delinquente di turno, possa avere appunto, scusate il gioco di parole, vita facile. Insomma, su questo bisognerebbe intervenire. Noi come giornale della città che abbiamo a cuore appunto la nostra città, i nostri concittadini, concittadine, stranieri, romani, non importa che cosa siano, abbiamo lanciato 5 proposte sulle quali abbiamo avuto, diciamo, diverse risposte e anche molte adesioni alla nostra campagna, cioè di avere più telecamere, di avere dei taxi che siano dedicati, no, alle donne con un numero a disposizione, con delle app che possano essere, no, chiamate immediatamente quando appunto una donna si trova magari in una situazione di pericolo, fare delle campagne di informazione a tutti i livelli, anche presso ambasciate, università straniere, sensibilizzare i gestori dei locali notturni per mettere a disposizione il personale buttafuori, bodyguard che possano soccorrere o intervenire e quindi anche prevenire, sarebbe meglio naturalmente, situazioni di pericolo. Cioè un pacchetto di 5 proposte. Voi le state proponendo da quanto, Ernesto, sul Messaggero? Mi pare la prima puntata è uscita mercoledì scorso, quindi siamo quasi già una settimana, insomma. Senti, e riuscite a comunicare direttamente con la Giunta Raggi, con la sindaca? Cioè vi sembra che ci sia ascolto, no, anche se per carità avete iniziato da poco? No, ma la sindaca devo dire che è stata dalle prime che ci ha risposto con una lettera di suo pugno, insomma, che abbiamo pubblicato sul giornale in prima pagina, quindi diciamo è stato un gesto di anche di attenzione da parte sua, e credo che sia come sindaco e ovviamente come donna credo che sia particolarmente così sensibile all'argomento, fermo restando che questo la battaglia, la lotta, no, contro le violenze ai danni delle donne non deve essere, lo dico da uomo, non deve essere una prerogativa solo delle donne, cioè io spero, chiaramente, se non si va da nessuna parte, mi auguro che sempre più, no, uomini, maschietti eccetera invece si battano per questo. Tante volte invece vedo che magari, ecco, iniziative anche lodevoli, bipartisan in Parlamento, partono sempre dalle donne, quindi se non c'è, diciamo, poi un coinvolgimento anche dell'altra metà del cielo, insomma, diventa un po' complicato. E il nuovo caso di oggi ovviamente rimette l'attenzione su questo problema. Per quanto riguarda, diciamo, le beghe della classe politica, le lascerei così, lasciano un po' il tempo che trovano. Mi limito così a sottolineare il fatto, che secondo me è abbastanza paradigmatico per quello che è successo a Roma negli ultimi 10 anni, che il centrodestra, faccio un esempio, è passato da essere martello, nel senso che batteva sulla vicenda della povera signora Reggiani, aggredita, violentata ed uccisa ormai 10 anni fa da un rumeno, insomma, a una fermata di un trenino regionale, e sono passati 10 anni. All'epoca la destra cavalcò questa cosa e ci vinse poi sostanzialmente la campagna elettorale. Quando Alemanno è diventato sindaco è diventato invece incudine, perché gli episodi di stupro ci sono stati anche durante la sua amministrazione. A quel punto era lui sotto botta, oggi è sotto botta la Raggi, attaccata da Salvini, la Lega, Calderoli eccetera, insomma, diciamo, la stessa parte politica più o meno, mutatis mutandis, no? Sempre del centrodestra. Quindi per dire, e la stessa cosa vale per il PD, cioè quando era attaccato da Alemanno si difendeva, quando Alemanno era al potere lo attaccava, insomma, queste sono beghe politiche che veramente lasciano un po' il tempo che trovano. Bisogna agire. Se remassero una volta tanto per delle battaglie di civiltà tutti quanti dalla stessa insieme parte, so che è un'utopia, però insomma ogni tanto è un'utopia, ma è assolutamente sottoscrivibile, caro Ernesto Menicucci, del Messaggero. Leggo che in settimana si terrà un comitato per l'ordine e la sicurezza presso la prefettura di Roma per affrontare appunto anche il tema delle misure da prendere per rendere la città più sicura per le donne, quindi speriamo che le vostre proposte siano messe in scaletta e siano attuate il prima possibile. Grazie Ernesto Menicucci del Messaggero. A voi. Grazie, buon lavoro, ciao. Rimaniamo nei paraggi con il nostro Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao Roberta, buonasera. Perché il caso di Emanuela Orlandi vive un'ennesima puntata, no? Vi ricordate la ragazzina scomparsa nel 1983, per anni ricercatissima sia in Italia che a livello internazionale, al centro di una vicenda che penso, Carlo, abbia il record di versioni. Negli anni 2000 cose si sono dette che poteva essere andata così, cos'ha, poi ci sono state depistaggi, ci sono stati intrighi di tutti i tipi. Adesso la cosa nuova, dopo 34 anni, anni che la famiglia cerca la verità e questo nuovo dossier che riguarderebbe il Vaticano, un documento inedito. In questo documento sarebbero elencate spese sostenute dal Vaticano dal 1983, quindi da quando è scomparsa Emanuela Orlandi, al 1997, tra spostamenti, vitto e alloggio in un pensionato di Londra, cure mediche, un bilancio, insomma una spesa da parte del Vaticano, direbbe questo dossier, di 483 milioni di vecchie lire. L'ha pubblicato questo documento il giornalista del Gruppo Espresso Emiliano Fittipaldi nel suo nuovo libro Gli impostori, e dice lui stesso però ha dei dubbi sulla credibilità di questo documento. Vogliamo sentire un passaggio della conferenza stampa che ha tenuto. Questo è un documento che era importante pubblicare, perché se è un documento vero apre squarci impensabili su una storia di cui si sa ancora troppo poco. Se è un documento falso è altrettanto sconvolgente, perché c'è qualcuno che in passato o nel passato più recente ha costruito ad arte un documento apocrifo per minacciare, per depistare. Quindi, caro Marroni, sia che fosse vero sia che fosse falso sarebbe gravissimo in ogni caso. Tu cosa ne pensi? Diciamo così, una premessa. Pubblicare un documento del quale non si è certi della veridicità al nostro giornale non lo permetterebbero, diciamo così. Però questo non voglio criticare o cos'altro, però diciamo che guardando il documento che abbiamo visto tutti, perché era pubblicato, è talmente palese che non è vero, che probabilmente sì, è stato scritto e fatto circolare dentro i sacri palazzi, verosimilmente per inquinare i pozzi o per depistare non so bene cosa, visto che sta parlando per lo più di persone morte da tempo, a parte una, un cardinale, il cardinale Re, che ha smentito di averlo mai ricevuto, sì. Quindi è morto anche chi l'avrebbe scritto. Ma se non fosse perché stiamo parlando della tragedia di una ragazza, ora sarebbe donna adulta, verrebbe da dire che quasi da Topolino, da Paperinic, perché talmente sono depistaggi 30 milioni, cioè, capito, questo è il documento. Comunque, qual è il tema? Il tema è che anche il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro Orlandi, che da anni sta combattendo una sua personale battaglia per ottenere la verità, lui lo fa verso il Vaticano, verosimilmente l'avrebbe fatta anche verso le autorità italiane, visto che Emanuela Orlandi è stata vista per l'ultima volta dentro il territorio italiano, e sa, conoscendo, avendo lui lavorato allo IOR, la Banca Vaticana, per molti anni, sa che questi tipi di documenti non sono scritti così, cioè dentro il Vaticano non c'è. E poi questo è un documento che alcune pagine che ipotizzano uno scambio di pagine tra alcuni cardinali, in cui si parla del rapimento e del mantenimento in cattività, quindi in prigionia, di una donna, di una ragazza in questo caso. Ecco, ora diciamo così, non lo so, io porto rispetto a tutti i colleghi e sono anche molto abili a avere, però è un'operazione mediatica, su questo non c'è dubbio, sono usciti i due principali quotidiani italiani insieme, quindi hanno, diciamo così, chi l'ha fatto circolare diciamo contemporaneamente. Detto questo, Papa Francesco è stato eletto fondamentalmente all'indomani di uno scandalo di cui il Papa precedente era vittima, non artefice, Vatilix I, e purtroppo a distanza di tempo continuano a circolare questi veleni. Ora, questi veleni sono alimentati fondamentalmente e condannati da chi vorrebbe la trasparenza, ma di fatto evidentemente cavalca esattamente il contrario. Io non faccio nomi perché non ne ho le prove, ma se le avrò le scriverò. Vedo la mano di qualcuno interessato da Vatilix II a far circolare ancora questi documenti. Vatilix II fu quello successivamente che poi portò all'arresto e alla condanna di alcune persone. Ancora circolano evidentemente le mani che hanno maneggiato quello scandalo là, Vatilix II. E quindi ora è troppo complessa ricostruire cos'è l'uno, cos'è il due, se va un giorno lo facciamo insieme, però ancora girano queste cose. Quindi questo dispiace, perché per qua dispiace, diciamo, in generale, perché vedere che insomma alcuni si lavorano per la trasparenza e poi insomma queste cose qua poi hanno un impatto mediatico enorme, diciamo, è come fare sempre un passo indietro, no? E la povera famiglia, insomma, continua a cercare la verità da 34 anni. Poi la povera famiglia ancora soffre giustamente della sua tragedia, più o meno in silenzio, e insomma, ecco, questo viene illusa in questi modi. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te, Carlo. Roberta. Ciao. Ciao, buona serata. Intanto, prima di lasciarci i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, qualcuno scrive: le accuse alla Raggi hanno un taglio fascista. Il Movimento 5 Stelle non ha niente a che fare con metodi che puzzano di manganello e di violenza subdola travestita da analisi politica. Veramente il giornalista, il capo servizio di prima del Messaggero, Menicucci, stava parlando di proposte come taxi dedicati con delle app particolari dedicate alle donne, stava parlando di videosorveglianza delle telecamere, tante a Roma come in altre città, che non funzionano, che siano invece utilizzate. Non capisco dove sia il manganello. Ogni tanto lo ricordo: un solo bicchiere a pasto, per favore, non di più. Poi un altro ascoltatore scrive invece, questo è un bel messaggio: tutte le donne che accompagno sul mio taxi di notte aspetto che entrino in casa e poi continuo il mio lavoro. L'occhio lungo sui tempi che stiamo vivendo non devono limitarsi ai soli tassisti. Grazie di questo messaggio. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo velocemente il filo delle notizie, sono tante, ne abbiamo parlato finora ampiamente di alcuni fatti, come appunto la violenza su una turista tedesca a Roma e poi di questo nuovo dossier sul caso Orlandi, che però il Vaticano dice falso e ridicolo. E poi ci sono le primarie del Movimento 5 Stelle e la Lega di Salvini che lancia una provocazione, ne parleremo proprio tra pochi istanti. Saluto per la politica italiana la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, cara Barbara. Buonasera. Barbara, come al solito sono tantissimi i temi, quindi proprio così a volo d'angelo, e anche a te chiedo di essere su ognuno sintetica e ficcante come sai essere. Lo Ius Soli che continua ad aleggiare sul Parlamento, sulla campagna elettorale, i candidati premier del Movimento 5 Stelle che fino a poco fa sembrava il candidato unico Di Maio, e su questo c'era molta polemica dalle opposizioni al Movimento 5 Stelle ma anche all'interno dello stesso movimento. Poi Grillo poco fa ha postato sul blog altri 7 nomi, diciamo sono degli illustri sconosciuti, io non saprei chi siano, però ci sono anche questi altri 7 candidati. Dopodiché ci sono i guai della Lega con i fondi sequestrati nei giorni scorsi per le spese illegali di Bossi e Belsito. Salvini che ha parlato di Bossi ieri a Pontida e anche oggi ne ha riparlato, dicendo che insomma bisogna ormai voltare pagina, dare una svolta, una dimensione nazionale alla Lega e non più riferita soltanto al Nord. E poi ha lanciato questa provocazione sfidando i giudici: per una settimana tutti i parlamentari della Lega via dal Parlamento, visto che lui dice che è un attacco da parte delle toghe rosse per mettere fuori gioco la Lega. E poi a Salvini Berlusconi ricorda, rinnovato, tornato dall'Alto Adige in piena forma, che il leader del centrodestra è sempre lui. Cosa vuoi, da dove vorresti cominciare? Ti faccio sentire Brunetta, guarda, sullo Ius Soli, sì, oggi a Radio 24 Mattino. Se il governo forzerà sullo Ius Soli, ci sarà una grande battaglia democratico-parlamentare e nel paese. E siccome tutto questo avverrà di fatto in campagna elettorale, sarà un buon viatico per la campagna elettorale. Semmai la legge, con grandi forzature, sarà approvata, immediatamente procederemo alla raccolta di firme per il referendum abrogativo durante la campagna elettorale. Insomma, questo Ius Soli continua a creare inquietudine, eh? Chi tira da una parte, chi tira dall'altra. Eh sì, anche perché si somma alle difficoltà del governo, nel senso che MDP, cioè gli ex PD Bersani e gli altri, minacciano di uscire dalla maggioranza qualora lo Ius Soli non passi. Allo stesso tempo Angelino Alfano con AP si è schierato, come dire, con una posizione prudente. Sì, in serata, sì. No? Un'apertura, sì. Ha detto, ma... sì, una piccola apertura. In realtà la prossima settimana ci sarà la direzione dei centristi. Alfano rischia che un pezzo di partito, insomma, lo contraddica qualora lui decidesse di andare a votare lo Ius Soli. Quindi c'è una grande difficoltà, come avviene quasi sempre alla fine di una legislatura e con la finanziaria alle porte poi. Senti, invece su Di Maio qualcuno ha criticato anche all'interno proprio gli ortodossi. Allora, Di Battista ha rinunciato a candidarsi premier per il Movimento 5 Stelle, lo stesso ha fatto Fico, però gli oppositori dicevano, i detrattori, insomma, ma allora cos'è il pensiero unico, soltanto Di Maio, che primarie sono? Hai visto gli altri 7 candidati? Li hai visti tu i nomi? Vediamo se riesco a ritrovare la lista. Le ho visti, ma neanche li ricordo. Sì, no, comunque non erano persone che note, diciamo. No, sì, no. Vediamo, eccoli qua: Vincenzo Cicchetti, Luigi Fattori, Elena Fraliciardi, Andrea Davide Ispirato, Domenico Novi, Gianmarco Piseddu, Nadia Zordan Marco. Non li conosco, insomma. No. Che pensi? Alla fine sarà Di Maio, insomma, il candidato a questo punto. Beh, mi sembra evidente, perché gli unici due che poteva temere erano uno Di Battista, il quale ha un largo consenso all'interno del movimento. Cioè, Di Maio è il candidato premier per eccellenza in quanto, come dire, ispira fiducia anche all'esterno. Mentre Di Battista all'interno è molto popolare. E poi Fico, che appunto è l'ala degli ortodossi, e quindi anche se avesse perso, ma con un'affermazione importante, certamente avrebbe, come dire, messo in difficoltà, o quantomeno era un dato politico da leggere questo. Invece si è preferito un po' una non sono primarie vere queste, ecco, è deciso il nome, pure inutile farle. Quello è Di Maio. Vorrei far sentire, scusa, chiedo al nostro Paolo in regia, sentiamo Berlusconi che cosa pensa di Di Maio. Il centrodestra è davanti alle altre due forze, la sinistra e il partito ribellista dei 5 Stelle, che ieri ha tra l'altro indicato come leader un signore che io considero una bella meteorina della politica, dal bel viso in televisione. Una meteorina, hai capito, Di Maio per Berlusconi. Ritornato. Beh, è maestro nelle battute Berlusconi, anche questa volta non si smentisce. È ritornato in forma, almeno estetica. Poi cioè, comunque lui vuol fare il leader, l'ha richiarito di nuovo a Salvini. Per di questa storia di Salvini che pensi invece, tra il sequestro dei fondi per appunto le... Allora, personalmente... Cioè, sicuramente la magistratura ha fatto quello che deve fare, personalmente però ritengo che mettere nell'impossibilità di agire un partito politico non è mai una bella cosa per una democrazia, e quindi si sarebbe dovuto trovare una, anche perché siamo solo in presenza di una sentenza di primo grado, peraltro per una cifra insomma di gran lunga inferiore rispetto al monte dei fondi che si dice sequestrati, che poi non sono questi 49 milioni, in realtà cioè il massimo erano i 49 milioni, ma nei conti della Lega c'era di gran lunga molto meno. Fatto sta che adesso bloccare i conti correnti è un po' quello che succede anche alle imprese, magari quando hanno un problema, appunto, e gli vengono sequestrate dal fisco dei conti correnti, poi gli impedisci di andare avanti nell'attività ordinaria, cioè non quindi sanno come pagare contrario. Gli stipendi. Barbara, hai sentito di questa sorta di Mattarellum capovolto che, a cui sta lavorando il PD? Forse ne parleremo, anzi ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni. Qui si cercano acrobazie, equilibrismi, funambulismi di tutti i tipi, insomma. È sempre il gioco del cerino, a chi rimane in mano. Bene, lo sapremo nella prossima settimana. Che fa qualcosa, e adesso il Movimento 5 Stelle dirà che questo sistema non è possibile, e quindi siamo di nuovo da capo. Va bene, così abbiamo di che lavorare. Grazie Barbara Fiumeri. Grazie a ciao voi. Cara Barbara, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ve le ricordo in pochi secondi le più importanti: violenza sulle donne, turista tedesca stuprata a Roma, ritrovata nuda e legata a un palo, si cerca un ventenne, polemica sulla sicurezza nella capitale. Ius Soli, apertura di Alfano, timida, si diceva, per noi non è un problema di merito, dice, ma di tempi del voto. Le primarie del Movimento 5 Stelle, Di Maio unico, big, Di Battista rinuncia, sul blog di Grillo altri 7 candidati. Voli, Ryanair lascia a terra 400.000 passeggeri, rischio di rimborsi per 20 milioni, e poi il caso di Emanuela Orlandi, di cui abbiamo appena parlato, ho parlato poco fa di questo dossier che il Vaticano definisce però falso e ridicolo. Adesso invece colleghiamoci con gli Stati Uniti. Perché c'è il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore, da New York al Palazzo di Vetro, Palazzo dell'ONU, anche se non è tutto di vetro, né vero Marco? Perché lì si sta per tenere l'assemblea, non so se è già in corso o se più tardi, l'assemblea generale dell'ONU. Trump è al suo debutto, il presidente americano, e vuole già rinnovare un po' le Nazioni Unite. Sì, sì, è così. Il debutto così formale dell'assemblea generale sarà domattina, quando anche interverrà per la prima volta appunto il presidente Trump in seduta plenaria della 72esima assemblea generale dell'ONU. Ma come dicevi, già oggi ha avuto una specie di un predebutto, perché la missione americana aveva sponsorizzato un primo incontro, seppur breve, dedicato con Trump e con il segretario generale dell'ONU Guterres, dedicato alla riforma dell'ONU. E quindi un po' un Trump che così si impegna sull'ONU, quindi abbandonando forse i toni più duri della campagna elettorale, quando la definiva un'organizzazione assolutamente inutile e quasi da eliminare, e però che allo stesso tempo preme per quella che lui dice deve essere una riforma che razionalizzi, che elimina la burocrazia, che renda la situazione più efficiente e che soprattutto riduca la dipendenza dai soldi degli Stati Uniti. Ecco, questa ricetta, secondo lui, ha detto oggi 4 brevissimi minuti di intervento a margine, appunto questa ricetta dovrebbe far tornare, non tornare, anzi dovrebbe fare grande l'ONU, non tornare grande. Marco, tra l'altro gli Stati Uniti sono reduci, no? Qualche ora fa da questo bombardamento, simulazione di bombardamento vicino alla Corea del Nord, con dei jet ma con delle bombe inerti, no? Nel senso, quindi innocue, però per far capire a Kim Jong-un, al dittatore nordcoreano, guarda che se alzi ancora un po' il tiro noi siamo pronti ad attaccare. Sì, sì, questo è diciamo il tema che domina un po' l'Assemblea generale, sì. E quindi anche il messaggio di Trump, cioè assediare la Corea del Nord e cercare di aumentare le pressioni il più possibile su Kim Jong-un perché cambi marcia, perché anzi faccia retromarcia sui programmi nucleari. In questo senso va interpretata le esercitazioni militari e i bombardamenti simulati. Per far capire il messaggio di Trump è che comunque un'opzione militare, per quanto non sia considerata al momento credibile, però è sempre comunque nelle carte, se possiamo dire che proprio la presenza di Trump all'ONU segnala anche quanto in questo momento per gli Stati Uniti l'ONU mostrare leadership all'ONU sia diventato cruciale, proprio per rendere efficaci le sanzioni, per perseguire al massimo possibile quella che gli stessi diplomatici americani ritengono sia l'opzione vera e numero uno tattica nei confronti della crisi coreana, cioè quella dell'isolamento e delle pressioni per far sì appunto che ci sia una svolta di denuclearizzazione. Senti, Trump in questo momento di che tipo di consenso gode negli Stati Uniti? Ma di un consenso sempre basso nei sondaggi, ma sempre che oscilla attorno allo zoccolo duro, che oscilla tra il 30 e il 40%. La chiave per lui diventerà a questo punto cercare di mantenere la fedeltà della propria base elettorale più radicale, quella che in realtà appunto è contraria all'ONU, quella che è contraria agli immigrati, quella diciamo più ultra, e allo stesso tempo però per ottenere dei risultati concreti aprire all'ONU, aprire la posizione democratica al Congresso americano per ottenere successi diplomatici, per ottenere successi di politica economica e sociale, per esempio la riforma dell'età, che lui molto desidera. Ecco, quindi questo doppio volto di Trump, da una parte quello di cercare di accontentare la base dura e dall'altra in qualche modo cercare il compromesso, ecco, sarà sempre più probabilmente al centro, sotto i riflettori. Se Trump riuscirà a un po' conciliare questi due volti rimane la cosa da vedere, o se invece si rivelerà una specie di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, diciamo. Chiaro, caro, caro Marco Valsania, è chiaro anche se ogni tanto la linea diciamo non era così nitida come dovrebbe. Grazie Marco Valsania da New York, noi ci sentiamo brevemente alle 22.